Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. Traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates. «Guarda!» ululava. «Guarda!» ripeté lei che non vedeva nulla. E Stefani, inginocchiata, si alzò lentamente e prese la cartolina postale che Frederica sventolava, sporca e stropicciata, e lesse una lista di voti talmente eccellenti che per un istante non le parvero veri. «Bene!» disse Stefani. «Benissimo! Sei contenta? Buon compleanno!» Frederica saltellò intorno al leggio, scompigliando le delicate ombrelle di carota selvatica che sprigionarono nuvole di polline. «Sta attenta, è fragile, ci ho messo ore a farlo.» «È carino, per cos'è? La festa del raccolto?» «Ma no, testona, non ancora, è per San Bartolomeo.» «Certo, il mio compleanno, il giorno del massacro. Li ho massacrati, ce l'ho fatta, non mi batte nessuno.» «Non urlare in chiesa. C'è gente che viene a cercare il silenzio.» Frederica si guardò intorno. «Ah, lui! Steph, cosa diavolo ci fa qui? Mi fa venire i brividi. Fammi il piacere di star zitta, potrebbe sentirti.» «Steph, posso fare qualunque cosa, meglio di chiunque, io posso fare...» «Quello che non puoi fare è mettere in subbuglio i miei fiori», disse Stefani con tutta la gentilezza possibile. «Non si può offrire ammirazione e incoraggiamento a qualcuno che si ammira e si incoraggia così straordinariamente da sé.» «Steph, una cosa inaudita. Papà farà una festa di compleanno per me. Una celebrazione con lo champagne e le fragole. A scuola, nel giardino dei maestri o nel chiostro, se piove. All'ora di colazione, sabato, il giorno dell'ultimo spettacolo. Mi ha mandato a invitare te, Daniel. Inutile sperare che venga lui, ma ha mandato me. Ho visto Daniel, mi ha detto di venire qui, che tu eri qui. E poi papà ha preso sul telefono e ha invitato Alexander. Ci sarebbe da morire dal ridere, ma è fantastico. Una tazza fin troppo piena. Attenta che non si rovesci», disse Stefani, riferendosi forse al suo cesto, forse alla vita. Frederica agitava le braccia e saltellava in modo inconsulto su e giù per la navata. Fu chiaro, quando sotto il portico comparve Alexander, seguito da Daniel, che Frederica aveva trasformato la chiesa in un luogo di appuntamenti e celebrazioni. Alexander aveva l'aria di una falena maschio, attratto da una pozione di miele e muschio. Daniel aveva l'aria di Daniel. Frederica si precipitò con la sua gloriosa cartolina verso i nuovi arrivati. Luca Simmons era sempre inginocchiato accanto alla colonna, a occhi chiusi. Frederica saltò, inciampò nel cesto di fiori, si assicurò di cadere nelle braccia di Alexander. Stefani voltò loro il dorso appesantito e riprese a disporre campanule in quel rigoglio di graminacee. Daniel venne ad accarezzarle la colonna vertebrale, la sua mano calda e pesante, dove già le dolevano i muscoli. «I Potter, pensava Daniel, erano di una distrazione crudele. Come facevano a non accorgersi del pallore di Stefani, di come si era ingrossata, della sua nuova lenta risolutezza? I Potter, instancabili se si trattava di commentare voti e giudizi, voti su fogli di carta, voti su cartoline postali stropicciate, voti su cartelloni di cartone, giudizi esposti al mondo e dal mondo. Bill, che si era permesso di disertare il matrimonio della sua primogenita e rendere ridicola la parte di cerimonia cui si era infine degnato di presenziare, avrebbe ora contravvenuto alla proverbiale spilorceria della gente del nord per innaffiare di champagne un risultato scolastico. Daniel li disprezzava. Era dotato di robusta immaginazione quando si trattava di una donna che ha paura di soffrire o di un uomo, lui stesso, che aveva visto altri uomini amare, bene o male, i loro figli, e perciò poteva misurare la propria capacità di amare il suo. Quando Marcus entrò in chiesa, tutti quelli che erano già lì pensarono che fosse venuto a cercare uno di loro. Federica pensò che fosse venuto per il suo compleanno o per i voti conseguiti. Alexander pensò che fosse in cerca di un consiglio o un aiuto che fino a quel momento gli era stato negato. Stephanie pensò che fosse turbato, come lo era lei, dal nuovo passo compiuto da Bill in una certa direzione, memore forse degli sfortunati tentativi di stimolare e incoraggiare il genio diagnosticato in lui. Daniel suppose che avesse problemi di ordine religioso. Luca Simmons, come si capì in seguito, non dubitava che fosse stato richiamato dai segnali spirituali che lui stesso emetteva, messaggi falena di un'altra natura. Comunque Marcus, nel vederli tutti lì, esitò sulla soglia, pronto a tagliare la corda. Federica sventolò la cartolina decantando i propri risultati. Stephanie gli andò incontro per abbracciarlo. Alexander riparò dietro al leggio. Luca Simmons aprì gli occhi, lasciò con calma il banco dove era inginocchiato e si avvicinò alla balaustra dell'altare. Da lì rivolse al ragazzo un discorso brusco quanto sconclusionato. «Ce ne hai messo a ricevere il messaggio?» «Sapevo che saremmo stati al sicuro qui. Ti avevo avvertito che dovessi cercare voluto un ripiegare e preparazione. Sapevo che c'erano molte interferenze e qualcosa di statico, come diresti tu. Non le daremo il suo nome neppure qui. Ma non immaginavo che potessero captare qualcosa che usciva da qui. Comunque ho corso il rischio. Mio Dio, se posso esprimermi così, sono felice di vederti. Ci sono stati degli attacchi, te lo dico io, attacchi infernali. Ora che sei qui, siamo a posto». Si rese conto della presenza degli altri. «Buongiorno, padre Orton. Wedderburn. È sperare troppo che siate venuti tutti preparati a lottare in ginocchio. Comunque sia, buongiorno. Marcus?» Marcus rimase dov'era. Aprì la bocca, ma non ne uscì alcun suono. Cercò di allungare una mano e non ci riuscì, ma non pensò che fosse un demone o un malvagio spirito elettrico a trattenerla. Annusò l'odore acre del cerfoglio selvatico sulla pietra fredda. Non si mosse. Daniel fece qualche passo verso di lui e Marcus gli tese un po' incerto una mano, che Daniel afferrò. «Dimmi cosa vuoi fare», disse con cautela Daniel. «Non lo so». Alexander si avvicinò. «Vuoi andare a casa?» Marcus scosse la testa color paglia. «A casa di Daniel», suggerì Alexander. Marcus annuì. Sotto i pantaloni di flanella gli tremavano le ginocchia. Evitava di guardare la bocca dell'inferno e Lucas tradito. La casa di Daniel era piena di cuscini, teiere e altri oggetti orrendamente reali e vagamente consolatori che, se non erano una trappola, potevano rappresentare qualcosa di morbido e caldo a cui aggrapparsi. Strinse la mano forte asciutta di Daniel. «Portamici», disse. Daniel era preoccupato per Lucas. Si sentiva responsabile della sua anima almeno quanto quella di Marcus Potter, altra vittima, dal suo punto di vista, della sopravvalutazione dei risultati scolastici. Le anime, almeno quelle così imperiose, non erano la sua naturale preoccupazione, sebbene facesse del suo meglio con quelle che gli capitava di incontrare. Ma il piuttosto evanescente Marcus si stava aggrappando alla sua mano come un naufrago. Così andò con lui. Alexander, sentendosi inutilmente responsabile e un po' meno spaventato da Marcus che da Lucas, li seguì e Federica inseguì Alexander. Stephanie raccolse il suo canestro e si avvicinò al bacile di marmo accanto alla balaustra dell'altare. «Stavo sistemando i fiori per la festa di San Bartolomeo», disse con voce pacata a Luca Simmons. L'uomo emanava un lezzo nauseabondo di sudore, brillantina dolciastra, fenolo e alito cattivo che le sue narici, ipersensibili per via della gravidanza, colsero e assorbirono. «Le buone maniere inglesi sono una cosa orrenda», pensò Stephanie. «Dovrei chiedergli di cosa ha paura. Dovrei proporgli di inginocchiarmi insieme a lui. Dovrei dirgli che Marco si è malato. Non posso, non posso. Perché non si siede? Riuscì infine a dire, come se fosse un ospite nella sua chiesa. Con sua sorpresa, Luca sedette esattamente nel punto in cui era, sui gradini del coro, con la testa fra le mani. Lei continuò ad avvolgere il fil di ferro senza guardarlo. Lucas, con quello che era un pallido ricordo della giovialità di un tempo, disse: «Allora, quando nasce il bambino?» «Nessuno lo sa», rispose svelta. «E poi, intorno a Pasqua?» «Non lo sa nessuno perché abbiamo preferito non dirlo». «Io lo vedo». A Stefani l'idea non piacque. Era come se fosse nuda. Cercò di cambiare discorso. «Lei è un biologo, è il suo campo». «Non lo dica. Detesto la biologia». «No, non l'ho mai amata neanch'io», disse lei nel tentativo di essere rassicurante, e intanto disponeva le margherite in una specie di ventaglio al centro del bacile di alabastro. «Comunque era l'unica materia scientifica che capivo. Dovevo seguirne almeno una per poter insegnare inglese. Non riuscivo bene nelle materie astratte, matematica e così via. Alle ragazze fanno sempre fare biologia. Le piante, disse lui, o le pietre, non mi preoccupano. Ma bisogna essere migliori di me per sottrarsi al corpo umano e specializzarsi. Sono uno scribacchino. Perché si è sposata?» «Per avere una vita privata», disse lei onestamente, scorgendo per un istante il volto di Daniel, così com'era, vicino. «Non che sia molto privata. C'è un continuo via vai di visitatori». «Per avere una vita privata», Lucas rifletté. «Non ho una vita privata. Non ho una vita. Non tocco nessuno. La prego di credermi. Ho le mie ragioni». «E Marcus?» chiese lei con estrema cautela. «Marcus è molto dotato. Marcus riesce a vedere quello che nessun altro vede. Marcus è... non è come gli altri uomini». «Sarebbe meglio se lo fosse», rispose lei quasi tagliente. «No, dica quello che vuole». Si alzò in piedi, spezzato il temporaneo contatto, e tornò alla sua meditazione o veglia accanto alla colonna. Stefani proseguì lentamente il suo lavoro, fino a quando tutti i recipienti, accanto al fonte battesimale, al pulpito, al leggio e all'altare, furono colmi, pallidi, candidi, verdeggianti. Daniel tornò. «Come stai? Vuoi andare da Marcus? Frederica è peggio che inutile e Alexander si appoggia ora a questo ora a quel mobile con aria spaventata». Lei gli si avvicinò per sussurrargli all'orecchio quello che aveva detto Lucas. «Resto nei dintorni», disse Daniel. «Potrebbe parlare». «Ho coperto di fiori il tuo San Bartolomeo». «Molto bello», disse Daniel. «Molto bello. Per una ragazza che non voleva celebrare la Pasqua coi fiori». «Non ho detto che è resuscitato. Ho detto che l'ho coperto, lui, il suo coltello e la sua pelle». Festa nel Pantheon. La festa di Bill per Frederica, concepita e realizzata in fretta e furia, era potenzialmente foriera di difficoltà. La si tenne nel Pantheon, non nell'adiacente giardino, perché il tempo stava peggiorando. Il cielo minaccioso dello Yorkshire ne fece una bizzarra via di mezzo tra un tè pomeridiano e una libagione alcolica. Dopo il tè, i sandwich al prosciutto, i pasticcini e le fragole, ogni ospite avrebbe avuto un bicchiere di champagne per brindare a Frederica. C'erano però ombre oscure e minacciose. Una di queste era Marcus. Tutto in tiro nel suo unico abito pulito, stava seduto sul muretto del chiostro e fissava il prato senza vederlo. Daniel e Stefani non erano riusciti a tirargli fuori niente, tranne la sicurazione che di qualunque cosa si fosse trattato era tutto finito e preferiva non parlarne. Alexander aveva comunicato a Daniel la sua interpretazione del problema di Marcus e in tale modo si era sentito più leggero, quasi pacificato con la propria inadeguatezza. Daniel ci aveva riflettuto e aveva riflettuto anche su quello che Lucas aveva detto a Stephanie, senza fare commenti. Cresceva in lui il desiderio di essere un vero religioso, col che forse intendeva un visionario o un mistico. Gli sembrava di capire che la sua energia sarebbe servita solo quando la situazione fosse precipitata. Teneva un occhio sul ragazzo e uno su sua moglie. Winifred, cui nessuno aveva detto niente, stava il più possibile accanto a Marcus, pur non osando avvicinarglisi troppo, e lo guardava guardare nel vuoto. Si era smarrito chissà dove, più lontano e più cupo che mai, e rischiava di perdersi del tutto se lei avesse tentato di seguirlo. E qualora non si fosse perso, la vita, o almeno il matrimonio, avevano insegnato a Winifred che la sua eventuale agitazione avrebbe spinto Bill a soffocare lei o suo figlio, o entrambi, di amore o odio, e che l'unica difesa era un assoluto distacco. Bill si abbracciò tra i tavoli, preparandosi a fare un discorso, e i tappi di champagne saltarono. «E allora?» disse Jennifer con una voce che a Frederica parve orrendamente stridula. «A quando il lieto evento?» «Quale lieto evento?» ribatté Frederica aggrottando le sopracciglia. «Il nuovo arrivo, in famiglia. Immagino che si festeggi anche quello oltre ai tuoi successi, o no?» «Anche se, del resti tra noi, non so se mi sarei imbarcata alla leggera nella maternità al posto di Stephanie. So che è un consiglio tardivo il mio, e naturalmente dovrei darlo con il sorriso sulle labbra. Ma fanne tesoro, Frederica, per quello che vale. Se puoi, evita. Non mollare. Non trasformarti in mucca da latte, donna delle pulizie. Non credere che si possa evitare la morte della mente con qualche frettolosa lettura tra il mucchio dei panni e la pila dei piatti da lavare. Non funziona. Il tempo per l'adulterio lo si trova, ma per la vita no. E per pensare nemmeno. Voglio fare i miei migliori auguri alla signora Horton. Vorrei parlarti un momento, Alexander, prima della fine di questi lieti festeggiamenti, se non ti dispiace. Alexander annuì senza fiatare. Frederica che questo tempo e chiese come avesse fatto a non notare quello che era tanto chiaro. Non sapeva dove rifugiarsi e non tollerava l'idea di restare e sostenere lo sguardo di sua madre, e così si diresse verso Stephanie. Le inservienti della scuola stavano togliendo le tazze del tè, rimpiazzandole con bicchieri di vino spumeggiante. Alexander scrutò la schiena implacabile di Frederica, si congratulò con Bill, come aveva fatto col resto della famiglia, per l'imminente lieto evento, e solo a quel punto si rese conto che i Potter ignoravano lo stato di Stephanie. Bill, che l'ascoltava distrattamente mentre si schiariva la gola, alla fine colse il significato delle sue parole. E Winifred, affrettandosi inutilmente, giunse in tempo per vederlo fulminare Daniel con uno sguardo di odio così intenso e sproporzionato che per un attimo pensò che fosse impazzito davvero e avrebbe scagliato le bottiglie o i vassoi d'argento contro quel genero nero e tarchiato. Daniel, preoccupato, fece notare a Stephanie che stava succedendo qualcosa. Bill cominciò a parlare troppo in fretta e in un modo piuttosto confuso dell'eternità del pensiero e dell'arte. «Perché i libri non sono cose morte, ma racchiudono una possente vitalità che ne fa una cosa attiva quanto l'anima da cui sono prodotti. Uccidere un essere umano è come uccidere un buon libro. Chi uccide un uomo uccide una creatura pensante, immagine di Dio. Ma chi distrugge un buon libro uccide il pensiero stesso, uccide l'immagine di Dio per come essa si manifesta. Ma chi distrugge un buon libro uccide il pensiero stesso». Uccide l'immagine di Dio per come essa si manifesta. «Molti esseri umani sono un fardello per la terra», disse Bill lanciando un'occhiata furiosa a Daniel, «ma un buon libro è la preziosa linfa vitale dei maestri dello spirito». «Pensa a me quando dice fardello», disse Daniel chiaro e tondo. «Ma di che cosa sta parlando?» domandò Stephanie che, assorta nelle sue meditazioni, s'era persa la maggior parte degli eventi precedenti. «Ti sta dicendo che i libri valgono più dei bambini», disse Daniel. Bill si era messo a sbraitare che lui era sempre stato un acceso sostenitore di un'educazione paritaria per donne e uomini e lodava la qualità del dramma di Alexander e dell'educazione della sua eroina. «Oddio!» esclamò Stephanie. «Sa tutto! È fuori di sé!» Probabilmente pensava di potersi sbarazzare di me, disse allegramente Daniel, ma direi che sta esagerando. Non c'è bisogno di che giusto per mandare l'impagliacata. E perché no? Non me ne importa niente. Mi occuperò di mio figlio meglio di quanto abbia fatto lui con il suo. Potrebbe essere una figlia o di mia figlia, disse Daniel, che non era un profeta. Bill stava esprimendo adesso con incontenibile furia la speranza che Frederica usasse le sue innumerevoli doti meglio e più di quanto lui avesse fatto con le proprie. Il futuro di ogni uomo è in suo figlio, a meno che egli non possieda così rari talenti da diventare un maestro dello spirito, e in tal caso... Si udì un'auto che accelerava. Sbucò a tutta velocità dal portico tra le due torri, su due ruote, e falciò stridendo la mezzaluna di un prato. Marcus Potter corse dietro alla macchina, spinto da una necessità più complessa, gesticolando all'impazzata, ma senza una parola. Continuava a correre, sebbene Simmons e il suo scarafaggio nero, dopo aver demolito qualche aiuola e una bella bordura, erano spariti, lasciandosi dietro uno stridio, un ronzio e un vago odore di bruciato. Alexander si lanciò all'inseguimento di Marcus. Daniel rassicurò Stephanie con una pacca sulle spalle e corse dietro Alexander. Bill smise di parlare. Frederica si morse il labbro e sollevò il mento. Alexander raggiunse Marcus lungo la strada che saliva verso la brughiera. Il ragazzo correva a testa china, barcollando penosamente con il fiato grosso. Nemmeno Alexander era in gran forma, ma accelerò e cercò di fermarlo. Marcus proseguì senza badargli. Per parecchi minuti Alexander trottò scioccamente al suo fianco, dicendo cose come «Non serve, te l'avevo detto che era meglio non... cerca di ragionare». Udì il passo pesante di Daniel che si avvicinava e si lanciò disperatamente su Marcus in una sorta di placcaggio da rugby, come se fosse una questione di orgoglio maschile riuscire ad atterrare la preda per primo. Rotolarono insieme sul selciato e Marcus lottò come un animale, lui che sembrava così incorporeo, mordendo, graffiando e di tanto in tanto sganciando un debole pugno. «Voglio solo aiutarti», gemette Alexander. «Era mio amico», disse Marcus al passato, come se Luca Simmons fosse già morto. Daniel li raggiunse, piantò i piedi nella polvere e li guardò dall'alto. «Basta», disse. «Non essere stupido. È perfettamente inutile, quell'uomo è lontano chilometri ormai. Vieni a casa, Marcus». «No». «D'accordo, allora, cosa vuoi che facciamo?» «Io», disse Marcus, lottava per respirare. Pensò che sarebbe potuto morire lì, per la strada, ma non era un pensiero doloroso. «Io», ripeté con una fitta ai polmoni, strabuzzò gli occhi e svenne. Daniel si dimostrò esperto nel praticare la respirazione artificiale. Alexander si inginocchiò nella polvere limitandosi a osservare tanta efficienza, poi... Quando il ragazzo riprese faticosamente a respirare, aiutò Daniel a riportarlo a scuola, adagio adagio. Bill venne loro incontro, pallido ed esitante adesso. Daniel, che aveva ripreso fiato, gli ingiunse di farlo portare in infermeria e di chiamare immediatamente un medico. Alexander, che non aveva ripreso fiato, s'appoggiò a una colonna. L'aria gli lacerava i polmoni, aveva gli occhi annebbiati, il viso graffiato e gli abiti sporchi di terra, i bei capelli spettinati. Attraverso un velo di lacrime brucianti, vide Federica che si allontanava a grandi passi. La sua festa era stata rovinata e la sua dignità offesa. Anna Bonaiuto ha letto La Vergine nel Giardino di Antonia Wyatt. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.